non si aspettava di incontrare te, che hai sconvolto tutte le sue regole. Pericoloso mettersi in gioco e poi svelarsi a poco, ma mi manchi ancora, che me ne faccio di tutta questa libertà. Sì, il mio letto è sempre sotto sopra, e non mi ha mai abbandonata la nostra gioia immaginata. Non sembrava fragile, si sgretola quando la prendi te, e ora chi rimetterà a posto questo disastro pericoloso? Soffiare sul fuoco e dimenticarti come fosse poco, ma mi manca. Scordare tutta quella felicità.